Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Fui facile profeta qualche settimana fa quando dissi: torneremo ad occuparci di Tasi una volta che tutti i comuni avranno pubblicato le delibere. Ed eccoci qui, qualche giorno dopo appunto la pubblicazione sul Ministero dell'Economia e delle Finanze delle aliquote, eccoci qui a fare i conti. Qualcuno aveva già pagato con la scadenza, diciamo, ordinaria di metà giugno, tutti salderanno il 16 dicembre, ma per i cittadini dei comuni che hanno deliberato appunto da poco, dopo l'estate, magari dopo le elezioni amministrative, c'è una scadenza che sta per arrivare con la metà di ottobre. Quadro a tinte più fosche che limpide, lo facciamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, che una tassa sia comunque fastidiosa, lo abbiamo detto più volte, che poi corrisponda a dei servizi è altrettanto vero, che su questa Tasi sia stata fatta tantissima confusione, lo dicemmo già nello scorso autunno. Sì, purtroppo è una tassa che sicuramente gli italiani si ricorderanno, non solo per l'importo, che poi magari andremo a fare qualche ragionamento, ma soprattutto anche perché è l'ennesima tassa sulla casa che questo governo ha voluto applicare dopo le precedenti IMU, ICI e quant'altro. E certamente è una tassa che è ancora poco chiara su quelli che saranno i costi e gli importi che cittadini e la gran maggior parte di noi dovrà pagare, in quanto per effetto delle scadenze europee che ci sono state a maggio del 2014 hanno pensato bene, per non dare a compromettere il risultato elettorale, di non deliberare nei termini previsti, e quindi automaticamente si andrà a pagare la prima rata il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre. È una tassa che va al 100% nelle casse del comune, perché è quella che serve per finanziare ad esempio l'illuminazione pubblica piuttosto che le asfaltature delle strade, e a quello e solo a quello devono servire questi soldi. Chi ha già pagato a giugno ha già fatto un confronto su quella che era l'IMU per la prima casa. Qualcuno si è trovato meglio, qualcuno si è trovato con degli aumenti. Diciamo che non si può fare un conto per tutti, perché ogni casa ha un valore catastale diverso, ogni comune ha delle aliquote che ha deciso magari per compensare dei buchi di bilancio. Ah, certamente, però è anche vero che questo ha generato grande confusione, e soprattutto le persone, come al solito, si troveranno alla vigilia della scadenza un po' in preda a quelli che saranno le opzioni per potersela andare a calcolare, perché come al solito dovranno, tenendo conto dei nuovi metodi di calcolo, rivolgersi al CAF, andare ai comuni o ai patronati, ai sindacati, per cui come sempre succede che c'è una novità, e quando c'è una novità purtroppo viene fuori tutta la disorganizzazione e il malfunzionamento di questa che anche noi come Adico definiamo una porcheria, perché oggi è impensabile che queste tasse non vengano già, oltre a non essere per nulla d'accordo su tassare la prima casa, comunque se c'è da pagare una tassa, come c'è una rendita catastale, dovrebbe essere anche giusto che arrivi a casa un modello precompilato e che semplifichi un po' la vita dei nostri cittadini. Un modello che alcuni comuni più organizzati, più efficienti, sono riusciti a mettere a disposizione, in tanti altri casi però il modello è lasciato alla compilazione appunto del cittadino, pensando soprattutto al caso di anziani, lì dove ci sono magari delle comproprietà, lì dove c'è un proprietario e un inquilino. Insomma, i casi sono moltissimi. Io spero che i comuni che adesso hanno deliberato mettano a disposizione dei cittadini degli appositi uffici, soprattutto che non ci si trovi a ridosso del 16 di ottobre, che cade di giovedì, a dover pagare. Quindi cominciate già adesso, possiamo dire questo Carlo, cominciate già adesso ad informarvi. Sì, cominciare adesso, almeno fissarsi la data da qua a fine settembre o massimo al primo di ottobre, perché poi aspettare gli ultimi giorni verso la scadenza si rischia veramente di andarsi a complicare la vita e congestionare gli uffici. Certo è che parlando di questa tassa, quello che risulta chiaro è un po' il dato che emerge soprattutto dal centro studio Will, dove sostanzialmente sembra che l'aliquota media che viene definita sulla rendita catastale è di circa il 2,6%, un 2,6 che racconta quello che è dato dell'associazione dei comuni, che si attesta intorno all'1,95 scusa per mille. Però è anche vero che se andiamo a discutere di quello che è il valore dell'aliquota determinante sulla rendita catastale, quello che genera totale confusione ed è il meccanismo di detrazione, perché qua è vero che ogni comune si è dotato in una certa maniera e soprattutto, come ho detto, rispetto a quello che era il vecchio ragionamento che si applicava sull'IMU, che era di 200 euro sulla prima casa più 50 euro per un figlio per un massimo di 4 figli, poi sostanzialmente tutto questo non esiste più e il sistema è completamente cambiato e i dati sono che il 35,9 dei comuni ha previsto, solo il 35,9 ha previsto uno sconto, il 15% si è dotato di una detrazione fissa, il 19% le ha legate alla rendita catastale della casa, il 13,3% le ha concesse per i figli a carico, quasi tutti solo invece a partire dal terzo e dal quarto figlio, e altri hanno agevolato, applicato le detrazioni solamente dietro il calcolo del reddito ISEE, altri hanno tenuto conto invece dei figli con handicap, altri hanno previsto sconti in base a all'età dei proprietari, cioè un vero macello secondo noi. Eh sì, è un federalismo un po' troppo spinto, un federalismo molto confuso dove davvero ognuno qui fa per sé, cerca, mi metto nei panni dei sindaci e degli amministratori, cerca di barcamenarsi per alla fine far tornare i conti del bilancio. L'impegno che era stato preso, ma noi su questo saremo vigili, impegno preso dal governo, è che per il 2015 ci sia uniformità di date, di criteri, perché davvero quest'anno è stata fatta molta confusione. Diamo un consiglio che vale per tutti. Tutti, rivolgetevi al vostro comune, all'ufficio tributi, appunto, per chiedere chiarimente, non aspettate l'ultimo giorno per non incorrere poi anche nelle sanzioni che ci sono. Tra l'altro poi l'ultima cosa che diciamo, Carlo, è questa vicinanza tra metà ottobre e metà dicembre, due rate molto vicine da pagare, magari non pesantissime, però sono un ulteriore peso. Sì, ma certamente saranno rate anche secondo il nostro avviso pesanti, perché poi alla fine ricordiamo che le famiglie stanno appena e stanno ancora continuando a pagare il salasso dei figli al rientro a scuola, perché in questo periodo sono tutti alle prese con i libri, con i kit scolastici e quant'altro, non faranno tempo a pagare questo, che si troveranno a pagare questa nuova tassa. E come detto noi, una tassa del tutto indecente, che è l'ennesima tassa che viene applicata sulla casa, di cui veramente ne denunciamo tutto il nostro sdegno, perché riteniamo giusto che sulla prima casa non si debba pagare tasse. Temo che ci torneremo un'altra volta su questa tassa e su altre tasse. Tra due giorni però cambiamo argomento, parleremo di cellulari e di assistenza. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.